Mine Vaganti di Federico Taddia. Sono 7 minuti dopo le 17, questo è Mine Vaganti, il programma domenicale che vi accompagna a scoprire un'altra Italia, un po' questa la missione, tra virgolette, tante virgolette, che ci siamo dati, un programma che avete conosciuto già lo scorso anno, siamo in onda da domenica scorsa e vi accompagneremo fino a fine agosto, appunto andando alla scoperta di queste mine vaganti. Chi sono per noi le mine vaganti? Sono persone non banali, sono persone che hanno qualcosa da dire, sono persone interessanti e abbiamo usato spesso anche la parola virtuosa e oggi sarà proprio questa parola virtuoso che ci accompagnerà. Perché con me in studio c'è proprio il coordinatore dell'Associazione Comuni Virtuose, associazione nazionale che racchiude quelle esperienze di amministrazione locale degne di nota, e scopriremo il perché, e quindi tenteremo di mappare un po' questa Italia che c'è, è silenziosa, a volte è piccola, fa poco rumore, ma c'è e il rumore lo fa nelle azioni quotidiane. Do il benvenuto a Marco Boschini, ciao Marco. Ciao Federico, ciao radioascoltatori. No, Marco è uno da 250 incontri all'anno? Più o meno. È impossibile trovarlo a casa, è sempre è una vera mina vagante. Diamo intanto subito le coordinate per chi volesse interagire con noi via SMS al 349-238-6666 oppure attraverso il numero verde 824-0024 o le nostre pagine in Facebook, le pagine di Mine Vaganti che aggiorniamo minuto per minuto. Ti ho appena caricato una tua foto e anche tutti i link relativi alle attività di Marco. Marco, questa parola virtuoso, insomma, è una parola che può essere vuota perché è facile, no? Pulirsi la bocca dicendo virtuoso, vale tutto. Per voi che cos'è il virtuoso? Ma per noi essere virtuosi nelle istituzioni è essere normali, cioè cercare di portare la nostra esperienza prima di tutto di cittadini dentro le istituzioni. Oggi suona rivoluzionario nel nostro paese perché spesso, quasi tutti i giorni, assistiamo a uno spettacolo abbastanza indegno della politica nazionale, di destra o di sinistra, poco importa. E quindi avere dei sindaci, incontrare, conoscere e valorizzare degli amministratori, consiglieri comunali, assessori che si dedicano alla gestione della cosa pubblica non smettendo mai di indossare gli abiti dei cittadini che vivono in quella comunità, è in questo momento forse la rivoluzione più grossa. Quindi una rivoluzione vera che anche noi vogliamo raccontare. E farò una richiesta molto impopolare. È facile dire mandatemi un SMS o chiamate se volete criticare la vostra amministrazione, se volete dire qualcosa che non funziona, se volete dire no, nel nostro comune c'è questa strada piena di buche da anni e nessuno l'ha giusta. Oggi vogliamo tentare di ribaltare la chiamata. E se avete idee che avete visto realizzare nel vostro comune o un comune che frequentate, o se c'è stata appunto un'iniziativa che secondo voi è degna di essere raccontata, di essere riproposta, di essere copiata, perché anche questo è il bello del virtuoso. Se insomma, se non siete un sindaco, se non siete un amministratore, soprattutto se non siete l'ufficio stampa di un comune, ma siete un semplice cittadino che ha visto una cosa bella nel proprio comune e ha voglia di raccontarsela, siamo qua. 349-238-6666 per farlo via SMS, 824-0024 per farlo attraverso il numero verde, e con Marco faremo proprio un giro d'Italia alla ricerca di alcune di queste iniziative. Partiamo proprio dal comune che ha vinto il premio, perché ogni anno viene dato questo premio comune a 5 stelle, sì. Che è proprio un marchio di qualità, diciamo. Sì, tra l'altro ne approfitto subito per invitare tutti i sindaci che sono all'ascolto a presentare progetti entro la fine del mese, il 30 giugno, al bando della quinta edizione. L'anno scorso noi abbiamo premiato il comune di Corchiano in provincia di Viterbo, questa comunità di 4.500 abitanti, dove tra l'altro vivono i genitori del premio Oscar Nicola Piovani, che ha voluto mettere una sorta di timbro di certificazione della bontà dei progetti del comune di Corchiano, un comune che bisogna andarlo assolutamente a visitare, dove i vigili girano in bicicletta, dove la raccolta differenziata è all'85%, dove c'è la Casa dell'Acqua che eroga acqua sfusa del sindaco a disposizione di tutti i cittadini, dove gli scuolabus vanno con il biodiesel, dell'olio di frittura esausto che la mensa scolastica e le mamme come le famiglie della comunità producono annualmente. Cioè il fritto, cioè l'olio esausto utilizzato nelle case viene raccolto? Sì, l'assessore dell'ambiente del comune ha pensato bene di mettere dei lattoni nelle aree verdi del paese, dove i cittadini, con dei bidoncini che vengono consegnati alle famiglie che ne fanno richiesta, possono conferire gli oli esausti invece di metterli nel WC o buttarli chissà dove. E diventano carburante per lo scuolabus. Diventano carburante. Fantastico. Per lo scuolabus del comune. Fantastico, vero? Proprio, cioè, le patate fritte fanno bene, questo è il messaggio che viene dato ai bambini. È divertente, insomma, è come si può autoalimentare questo circolo virtuoso in questo caso, ed è giusto dirlo. Diamo subito il sito, che è www.comunivirtuosi.org, da dove si può scaricare il bando e da dove si possono trovare anche le tante proposte arrivate in questi anni per capire cosa vuol dire essere virtuosi. Poi ci sono anche idee piccole, come quella per esempio di fare cassa, perché c'è anche il problema del fare cassa, no? Per un comune, che ne so, per esempio inventando matrimoni particolari. Oh, but deadly, eh? Huh? Oh. Mm. These was pabagal. Wishak! Jabaz! Videsh! Bontree! Quello che state ascoltando è un matrimonio in spiaggia realizzato in The Sim, un videogioco, la realtà virtuale, avete sentito anche il linguaggio, però hanno ricreato questo matrimonio in spiaggia, ma un matrimonio in spiaggia ieri c'è stato per davvero. E Nicolò, è andato tutto bene? Senti? Io sì, e tu? Molto bene. è andato bene, dai, molto bene. Una bella giornata. Ok, come le prime 24 ore da sposato sono passate? Sono passate, sono... Sai che sono le più difficili, sono passate indenne? Sì, no, guarda, dico la verità, ancora un po' devo realizzare il patto, però... l'unica cosa che posso dire è che sono molto felice. Okay. Allora Nicolò, tu sei toscano, vivi appunto a Montelupo Fiorentino se non erro, però hai deciso di andarti a sposare a Jesolo in spiaggia, tutto ciò è successo ieri e tutto ciò è successo grazie anche a un'intuizione del sindaco, ma questa intuizione credo sia stata suggerita dalla nostra ospite. Lei lavora nei servizi demografici del comune di Jesolo. Diamo il benvenuto a Cinzia Corradini. Ciao Cinzia. Buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, mi sentite bene? Ti sentiamo benissimo. Avrei voluto esserci il giorno in cui tu ti sei presentata dal sindaco e gli hai detto perché non organizziamo i matrimoni in spiaggia. È andata più o meno così? Più o meno. Io ho 25 anni che ci penso a questo progetto, ma nessun sindaco ha raccolto la mia idea. E invece il sindaco attuale, Francesco Calzavara, mi ha dato credito, nel senso che io sono jesolana doc, sì, e lavoravo prima nel turismo, e quindi vedendo un po' la crisi del turismo, la crisi in giro, e poi sentendo soprattutto l'esigenza di questi giovani sposi che non possono convogliare a nozze in chiesa per vari motivi, anche ideologici, cioè, a volte non possono, non vogliono, certo, o non vogliono, e dare a loro la possibilità di avere un giorno indimenticabile, non questa fredda cerimonia che di solito si fa in comune. Ho sempre cercato di dare qualcosa di nuovo, qualcosa di caldo, sì, di partecipare alla loro festa. E l'unico tassello che mi mancava di questo era il matrimonio in spiaggia, perché abbiamo fatto anche il matrimonio all'americana fuori, e questo è stato, questa mia idea è stata raccolta dall'attuale sindaco. E quando sono andata a dirglielo, essendo un uomo che vede oltre, è stato contento. Ci credo. Anzi. Cinzia, rimani lì anche Nicolò, ci fermiamo un attimo e lasciamo spazio alle informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo al vostro matrimonio sulle spiagge di Jesolo. Mine vaganti. Mine vaganti di Radio 24 è la nostra pagina ufficiale in Facebook, 824-0024 invece il numero verde, gli sms 349-238-6666. Siamo alla ricerca di iniziative virtuose, idee che vi sono piaciute dalla vostra amministrazione o di altre amministrazioni, intuizioni che ha avuto qualche sindaco o qualche assessorato, che possono essere etichettate come virtuose e quindi possono essere proposte per essere replicate altrove. Ora siamo a Jesolo, dove Cinzia Corradini appunto ha convinto convinto l'amministrazione questo progetto di fatto affittare un pezzo di spiaggia. Cinzia, cosa offrite come comune a queste giovani spose? Non abbiamo affittato nessun pezzo niente, di spiaggia perché la legge non ce lo permette neppure. Abbiamo, siccome Jesolo, non so se lei è mai stato nel nostro litorale, ha costruito negli anni 50 direttamente sull'arenile, quindi le costruzioni sono direttamente sulla spiaggia. Perfetto. Il comune ha vari fabbricati sulla spiaggia, tutti bellissimi, devo dire, però l'unico che in questo momento era agibile è questo stabilimento balneare che appartiene al comune. Quindi, non potendo portare il mare nell'ufficio dello Stato Civile, ho portato l'ufficio dello Stato Civile al mare. Brava, insomma, mi sembrava, è anche logico. È l'uovo di Colombo. E fate anche un po' cassa, però. Cioè... Allora, questo è il primo, quindi non lo so se facciamo cassa. Per il momento noi abbiamo fatto l'installazione fuori di questo ufficio di Stato Civile fronte mare. Ah, c'è proprio l'ufficio, cioè l'ufficio è, l'ufficio, è permanente, fantastico. No, bisogna farlo permanente, sennò siamo contro la legge. Non sono esperto in materia, quindi mi fido ciecamente. Deve essere un ufficio di Stato Civile, perché non possiamo fare delle cose finte. Abbiamo portato l'ufficio di Stato Civile distaccato in questo stabilimento balneare e abbiamo preso una porzione solo per voi, per noi. Perfetto. Quindi abbiamo la spiaggia subito lì, la cerimonia l'abbiamo fatta nella terrazza che è pertinenza dell'ufficio, quindi siamo in regola con tutta la legge, e poi la seconda parte della cerimonia, che di solito facciamo sempre, auguri, discorso del sindaco, firma del memorandum, l'abbiamo fatta direttamente sulla battigia, però tra l'ufficio e la battigia ci sono 10 metri. E quindi insomma è tutto lì. E Nicolò, insomma, un matrimonio particolare, come l'hanno presa gli invitati, i parenti? Ma i parenti non è che fossero neppure presenti, quindi... È andata bene con loro, ok. I invitati sono tutti rimasti soddisfatti, molto contenti, è una cosa veramente diversa anche da qualunque altro matrimonio al quale fossero stati in precedenza. E ancora per questo vi vado ancora a ringraziare la signora Guaradini che ha il telefono con voi. Perfetto. Vi siete portati la sabbia a casa per questa prima notte di nozze, diciamo così, ecco, vediamola anche questo lato romantico della cerimonia. Grazie davvero Nicolò, a te e alla tua moglie, oggi si può dire, e grazie Cinzia, complimenti per l'idea e in bocca al lupo, insomma, credo che sarà un ufficio molto utilizzato prossimamente. Speriamo che venga realizzato tutto il progetto matrimoni, che porterà benessere anche a quello che è l'indotto, diciamo, gli alberghi, i ristoranti, così speriamo di poter realizzare proprio, non dico una Las Vegas, perché la nostra idea è di fare una cosa molto più seria. Ma sì, esatto. molto più seria, infatti. Rimaniamo nell'ambito del virtuoso, va, non andiamo virtuoso, nell'ambito del circo. E del circo, e quindi una cosa molto seria, ieri è stato molto elegante come matrimonio, questo vorrei dirlo, non era una cosa così fatta... un matrimonio estremamente elegante. Perfetto, ciao Cinzia, grazie. Arrivederci, ciao, buona domenica. Marco, la creatività va a braccetto con la virtù, no? Nel senso che a volte, un po' per fare cassa, un po' per valorizzare il proprio territorio, bisogna aggrapparsi a quello, all'idea giusta, all'idea nuova, all'idea bella. Assolutamente sì, in questo momento i comuni fanno una fatica bestiale per riuscire a gestire l'ordinario, e quindi la fantasia diventa l'elemento fondamentale per chi vuole intervenire a favore dell'ambiente. Noi abbiamo dei comuni, ci spostiamo quindi dal centro Italia al nord, Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, che è il comune salito agli onori della cronaca per essere il comune che ha il 90% di raccolta differenziata, che quindi sui rifiuti è fortissimo, ma che ha degli amministratori talmente forti che lavorano anche su altri settori. L'anno scorso sono inventati questo gruppo d'acquisto fotovoltaico che è riuscito a coinvolgere 177 famiglie del comune, del territorio intorno, che hanno installato sul proprio tetto altrettanti pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Questo consente un risparmio economico per chi si porta a casa l'impianto, un beneficio ambientale perché si riduce l'impatto, e un enorme valore di diffusione capillare di una tecnologia che altrimenti diventerebbe difficile da applicare per una famiglia che magari non è tenuta a sapere che tipo di impianto scegliere e che strada percorrere. Certo. Tutto ciò anche accompagnato, mi sembra, sembra da comunque da un rapporto nuovo di coinvolgimento e di relazione tra i cittadini e l'amministrazione, nel senso che sono cose molto una nuova interazione, perché comunque devi coinvolgere, devi spiegare, devi raccontare, ma devi anche renderli protagonisti attivi, altrimenti rimane comunque una cosa imposta e siamo da capo. Penso che sia la novità più forte l'elemento che lega tutte queste esperienze, la partecipazione non come slogan preelettorale ma come proprio metodo di lavoro nei 5 o 10 anni in cui i nostri amministratori dei comuni virtuosi si trovano in prima linea, cioè i cittadini sono davvero chiamati a non mettere una croce e poi ci rivediamo fra 5 anni, ma a condividere le scelte che l'amministrazione porta avanti. Poi si può non essere d'accordo su un progetto piuttosto che un altro, però l'elemento essenziale è che i cittadini cerchiamo nei limiti del possibile di tirare fuori i cittadini di casa, farli spegnere la televisione e farli ricominciare a fare una cosa che non si fa più anche nei piccoli comuni, comunità. Comunità è appunto portare un'idea, farsi coinvolgere, essere parte attiva. E ci scrive, non è firmato, comunque è un ascoltatore, ci scrive al 349-238-6666, perché spesso insomma questa cosa dei comuni virtuosi è associata anche subito a comuni di piccolo media dimensioni, no? È più difficile nella grande città apparentemente portare questi discorsi, anche se alcune cose si stanno iniziando a vedere. E ci scrive da Verona, dice dove vivo e in qualche anno ha messo in piedi una rete wifi comunale gratuita straordinaria. Anche questo insomma perché sono poi gli argomenti sembrano sempre gli stessi, no? I rifiuti, comunque certo. L'energia elettrica, comunque il risparmio, però una rete wifi può essere veramente una svolta per noi. Abbiamo diversi comuni che hanno fatto questa scelta e che a partire dagli edifici pubblici sono poi riusciti a diffondere questa rete che consente ai cittadini di informarsi in modo altro rispetto a quello che passano i media nazionali tutti i giorni. Sulle grandi città io però voglio dire una cosa: in giro per l'Europa ci sono tantissime esperienze che sul tema della sostenibilità ambientale hanno fatto il proprio stile di governo del territorio, non sono giunte di sinistra o giunte verdi o giunte di destra, sono proprio un bagaglio culturale complessivo. In Italia questo non si riesce a fare perché si fa fatica. Io penso, a prescindere da chi sta amministrando in questo momento nelle grandi città, che ad esempio su Napoli, se si riuscisse a fare davvero un salto di qualità con una raccolta differenziata porta a porta spinta, lo stop agli inceneritori, progetti di questo tipo, noi potremmo dimostrare che anche in Italia, anche nelle grandi città che partono da situazioni drammatiche come quella di Napoli, si può davvero fare il salto di qualità. Eh sì, quindi non fare proclami ma fare azioni concrete, no? Che questo e vale per qualsiasi schieramento politico. 824-0024, numero verde, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Adesso un consiglio: se siete in macchina e state guidando e ci sono delle vigne dalle parti vostre, oppure siete in casa e avete una vigna vicino, alzate un attimo il volume della radio, lo faccio per voi. Pier Sandro, come la possiamo definire? Musicoterapia per grappoli d'uva? Speriamo che sia così. Io dirò a settembre a vendemmia quasi pronta. Do il benvenuto a Pier Sandro Penna, proprietario dell'azienda agricola La Briusa. Siamo a Vigliano d'Asti, Piemonte. E insomma, tu in collaborazione con l'Università di Firenze sei uno delle persone che non so, siete volontari, che avete deciso di aderire a questo progetto, appunto, dove viene accompagnata l'anno, diciamo, la coltivazione dell'uva con la musicoterapia. Cosa state combinando? Tu hai fatto un concerto per viti e grappoli. Nelle vigne, nelle nostre vigne, ai piedi delle nostre vigne. Dopodiché trasmetteremo il CD registrato di questo concerto 24 ore su 24 dal 2 giugno fino alla vendemmia prossima. No, scusa, aspetta. No, alto, non ho capito. Cioè, voi avete fatto un concerto, avete registrato e adesso andrà in loop 24 ore al giorno per tutta l'estate, fino alla vendemmia, fino a settembre. Ho capito. E questa cosa che benefici dovrebbe portare? Allora, stando alla sperimentazione fatta l'anno scorso dal professore dell'Università di Firenze, oltre al maggiore accrescimento della pianta, si dovrebbe avere un risultato in tenore zuccherino dell'uva superiore alla vigna non trattata. Ok. Io per adesso prendo questo con beneficio di inventario. Vorrei, diciamo, ad analisi effettuate dal nostro consulente aziendale in vendemmia sull'uva, risultati vedere, confrontare, poi tra il testimone l'hanno trattato e l'hanno trattato severamente così. Per il momento io ci credo e spero che sia proprio tanto veramente così. Ah, ma a noi piace molto come idea, cioè, insomma, mi sembra è una cosa un po' originale. Direi noi che cerchiamo mine vaganti questa... molto, certo. Adesso non so, tu hai dei vicini, siete sempre ben accetti. Hai vicini di casa, cioè, nel senso che comunque magari 24 ore al giorno. Mozart è bello, per carità, però 20... Ma il volume è talmente basso che deve coprire appena appena i rumori che ci sono in natura, i grilli, gli insetti. Proprio, ma quindi no. Hai montato un impianto stereo, un impianto di amplificazione? Esatto. Ma ti è costato tantissimo? No, diciamo l'investimento del materiale, siamo a spanne più o meno sui 1.000 euro. No, ho capito. 1.000 euro di investimento iniziale, perché abbiamo fatto l'esperimento non su una vigna grande, su una porzione di un vigneto la superficie di 1.500 metri come sperimentazione da prendere in considerazione. Ho capito. Pier Sandro, ho un altro paio di domande. Guarda, rimani lì, lasciamo spazio alle informazioni del meteo e poi torniamo, perché insomma Mozart per le viti ci piace. Mine vaganti. Questo è Mine Vaganti, lui è Beethoven, Beethoven per il Grappoli 2, 24 ore al giorno per un paio di mesi, fino alla vendemmia, così per coprire i rumori della natura, allontanare i parassiti e portare anche benefici che insomma sono stati studiati dall'Università di Firenze. Lui, Pier Sandro Penna, è uno dei proprietari di aziende agricole, lui in particolare è proprietario della Briusa Vigliano d'Asti, che ha detto: mi piace questa cosa, la possiamo sperimentare. E Pier Sandro, due domande secche: va bene qualsiasi tipo d'uva o ci sono uve più sensibili, più appassionate alla musica rispetto ad altre? Adesso è la zona dell'Astigiano in cui siamo noi, è prevalentemente coltivata a vitigno Barbera. Quindi di conseguenza noi la sperimentazione l'abbiamo fatta su una porzione di vigneto di Barbera. Perfetto. Che è il prodotto principe della nostra zona. Ok, mentre le musiche vanno bene tutte o ci sono musiche particolari che sono indicate? No, classica, non è specificato se è Beethoven piuttosto che un altro, o Mozart, perché comunque musica classica penso che non hanno specificato, e noi abbiamo preso come riferimento i suggerimenti dell'Università di Firenze, che c'era Mozart, Mendel, Vivaldi, tutte queste canzoni. Una musica non rockettar, soft, molto soft. Okay. E quando avete fatto il concerto lì? Era il 2 giugno. Il 2 giugno, ma erano molti musicisti, c'era una cosa. Una quarantina di elementi. Una quarantina di elementi, ma è stata una festa, immagino, cioè hai invitato i vicini si è fatto delle locandine, abbiamo divulgato sul territorio della provincia di Asti, abbiamo fatto un'uscita sulle radio locali, abbiamo pubblicizzato abbastanza e c'era un discreto. Fantastico. Di pubblico comunque che sono venuti a sentire, è stata piacevole la giornata, perché dopo al concerto chi voleva c'era la possibilità, la Proloco faceva un piatto di gnocchi tricolore in tema del 2 giugno, è stata una cosa carina. Ma sì, ci avete messo dentro di tutto, mi sembra che sia stata una grande festa. Sì. Vediamo, magari ne riparleremo poi in tempo di vendemmia per capire com'è andata. Nel frattempo io invito tutti voi di Radio 24 a una bella degustazione con visione dell'impianto. Ah, guarda che potremmo anche organizzare un pullman, stai attento. Veramente. Grazie Pier Sandro, ciao, buon lavoro. Insomma, questa è anche l'Italia che ci piace raccontare qui a Mine Vaganti. 349-238-6666 per i vostri messaggi, 824-0024. Stiamo parlando di azioni virtuose, di possibili scenari. Lo facciamo con Marco Boschini, che è coordinatore dell'Associazione Nazionale dei Comuni Virtuosi, comunivirtuosi.org è il sito. Ricordiamo, il bando è aperto fino a fine mese per partecipare, però anche voi potete segnalare iniziative belle della vostra amministrazione, persone, idee anche piccole che però possono cambiare le cose. Leggevo ieri, non mi ricordo dove, Marco, di un sindaco per esempio che ha fatto pubblicare il proprio numero di cellulare ovunque nel comune, proprio ha detto: se avete bisogno chiamatemi, io ci sono 12 ore al giorno, il mio cellulare è sempre acceso. È un piccolo segno, però anche questo fa comunità. Un paio di messaggi che sono arrivati: uno dice: a Cavriana, il mio paese, hanno istituito la programmazione partecipata, non sono altro che assemblee aperte a tutti in cui sono emerse però proposte, da cui due che sono diventate poi operative. E dice Giuseppe: ecco, questo della partecipazione e della programmazione partecipata è un altro elemento chiave, vero? Sì, molti dei nostri comuni lo fanno abbastanza regolarmente da qualche anno. È un modo per cercare, appunto, quello, come dicevamo prima, di tirar fuori la gente di casa e soprattutto di superare quello scoglio della diffidenza che ormai è abbastanza diffusa e capillare su tutto il territorio e noi rispetto alla politica. Cioè, la politica oggi è racchiusa nel commento al bar davanti alla tazzina di caffè, per cui sono tutti ladri, sono tutti corrotti, sono tutti inefficienti. In realtà non è così, soprattutto a livello locale. Ci sono delle persone normali che non sono eroi, che quotidianamente fanno il proprio dovere, il proprio mestiere, che poi non è un mestiere perché fanno contemporaneamente gli insegnanti, gli educatori e tutto quello che è, certo, la vita di tutti i giorni, quotidiana, sì. Ma che provano a mettere in campo con la loro fantasia un modo di stare insieme. E la partecipazione è uno strumento fondamentale. Nel bilancio ci sono comuni che decidono insieme ai cittadini come spendere le risorse anno per anno. Ci sono comuni, come quello che segnalava l'ascoltatore, che attraverso il piano regolatore condividono insieme ai cittadini quello che dovrà essere lo sviluppo, se ci dovrà essere uno sviluppo soprattutto urbanistico, della propria comunità, e come dovrà essere regolamentato. Quindi sono strumenti ormai abbastanza noti e abbastanza conosciuti. Il problema è che non sfondano e che fanno fatica a passare come messaggio, perché entrano in gioco altri interessi, altre questioni. E poi comunque è anche faticoso, adesso lo fa anche come provocazione, o forse no, insomma, è il suo pensiero. Un ascoltatore che non si firma dice: la raccolta porta a porta è una rottura di coglioni, fatevela voi nei vostri centri sociali. Ha messo insieme vari pensieri. Nessuno sta dicendo che comunque la raccolta porta a porta sia una cosa è più facile. La differenziata è comunque è uno sforzo, è vero, cioè ti devi mettere lì e per un attimo fare un'azione, che magari è molto più facile buttare tutto nell'indifferenziato e ciao, no, ci pensa qualcun altro. È comunque un salto culturale, anche indubbiamente. Un salto culturale, ma è una questione di abitudine. Cioè, laddove ci sono questi progetti, laddove si fanno queste iniziative, ad esempio la raccolta differenziata, banalmente funziona, può funzionare dappertutto, però ha bisogno di essere presentata, raccontata e preparata, e i cittadini devono essere parte integrante di questo progetto, se no la vivono come questo ascoltatore che pensa che sia un'iniziativa che vuole vessarlo e vuole fargli fare quello che non fanno i dipendenti pubblici. In realtà è un'azione che riduce l'impatto ambientale, gli consente di risparmiare qualche soldo alla fine dell'anno con la tariffa e gli consente di fare un'azione che va a beneficio del futuro della propria comunità e dei propri figli. Vuoi al volo segnalarci un altro comune, un'altra... Berlingo, in provincia di Brescia, una esperienza straordinaria che ci racconta come anche dalle situazioni più assurde si può costruire un progetto incredibile. Magari se abbiamo due minuti ve lo racconto. È questo comune dove c'era una discarica nel centro esatto del paese, a due passi dal campanile. Comoda, sì. E dal municipio. Uh-huh. Una discarica che ospitava rifiuti tossici. Questi amministratori sono riusciti a farsi rifondare del danno, a bonificare tutta l'area, e oggi se uno va a Berlingo, va a visitare quel luogo, ci trova una scuola materna, un asilo nido, un palazzetto dello sport, una bocciofila per gli anziani, un bar centrale, una zona tutta ciclo pedonale, e tutti questi edifici sono autosufficienti da un punto di vista energetico perché si producono l'energia di cui hanno bisogno. È un comune di 2500 abitanti dove con zero risorse ma con molta fantasia e soprattutto con molta determinazione hanno costruito questa specie di miracoli. Ecco, insomma, ci piace raccontare questi miracoli. Prima hai citato Napoli e adesso a Napoli ci andiamo. Napoli, creatura buttata a mezza navi. Napoli, cresciuta che ti fa dei cucai. Napoli, qualcuno a casa fanno l'eroi. Napoli, a scuola non ci sono mai potuti. Napoli, usciuri al rindo d'ossi. Napoli, affiliata rinda con colpami. Napoli, o guerna c'era sulla polizia. Napoli, e signora porna sta più tranquilla. Napoli, nessuno più lo scippo purzolì. Napoli, i ben pensanti votano DC. Napoli, i camorristi votano così. Napoli. Napoli, Napoli la conosciamo. Napoli è la città delle contraddizioni, Napoli è la città del bello e del brutto, Napoli è una città che insomma ti fa incantare ma ti fa anche arrabbiare per le sue mille dinamiche. Ma da Napoli arriva un'iniziativa che mi piace raccontare. Con noi ospite qui a Mine Vaganti Pietro Ioia, presidente da 5 anni dell'associazione Ex Don Ex Detenuti Napoletani Organizzati. Ciao Pietro, benvenuto a Mine Vaganti. Grazie, ciao. Ciao Pietro, abbassa un po' la radio perché forse sento una strana eco, grazie. Allora, Pietro, avete avuto un'intuizione che è quella di formare una sorta di gruppo di ex scippatori, dico bene? Beh, non sono solo scippatori, sono borseggiatori, sono giovani con piccoli ideali sulle spalle, esattamente. Mm-hmm. E l'idea qual è? Insomma, offrire un'alternativa a queste persone e facendole lavorare in un campo che conoscono bene, e quindi vi offrite come guide per i turisti. Guarda, noi 2 anni fa abbiamo fatto un progetto qui a Napoli. La sinistra ha fatto un progetto che si chiamava Esco Dentro, sì? Dove hanno lavorato 480 ex detenuti, e tra cui 80 di questi ex detenuti facevano assistenza ai turisti. All'improvviso questo progetto è sparito nel nulla, sì? È durato 8 mesi. Dopo 2 anni l'abbiamo riproposto noi alla giunta comunale di Napoli. Okay. Abbiamo una lista di 70 ex detenuti che si vogliono mettere a disposizione per i turisti per il mese di luglio, gratis. Quindi intanto questa sperimentazione per il mese di luglio gratuita, voi dite, noi conosciamo quelli che sono i rischi nel girare a Napoli, perché a volte insomma sono rischi concreti, sono rischi reali, è inutile fare i politicamente corretti, e voi dite noi sappiamo come difendere il turista, sappiamo spiegargli il trucco per non farsi, che ne so, rubare l'orologio, farsi sfilare di tasca il portafoglio, truffe quotidiane. Ma la sperimentazione quando l'avete fatta, quegli 8 mesi, come è andata? È andata benissimo, il 2009 è stato l'unico anno dove si è registrato meno furti, meno scippi di loggi e meno rapine ai danni dei turisti. Mm-hmm. Quindi insomma questa cosa funziona, lo potete testimoniare perché... Perfettamente. E per voi com'è mettervi dall'altra parte? Nel senso che com'è da ex scippatore mettersi lì a difendere un turista da potenziali scippatori? Ma guarda, noi c'è il fattore che... Purtroppo Napoli si parla sempre in negativi, in negativi, in negativi. Allora noi non vogliamo che Napoli si parli sempre in negativi. Ci vogliamo mettere a disposizione, noi siamo persone che abbiamo sbagliato e ci vogliamo riscattare, e ci vogliamo mettere a disposizione dei turisti. Penso che è una cosa bene fatta a Napoli. Ma è una cosa bellissima, insomma, credo che sia... cioè, sai, ti mette in gioco molto, no? Cioè, perché intanto devi comunque ammettere i tuoi errori, però devi ammettere anche che adesso ti senti cambiato. Perfetto. E ti metti Perfetto. A disposizione. Mine Vaganti. Questo è Mine Vaganti di Radio 24, le nostre pagine ufficiali in Facebook, dove potete lasciare messaggi ma trovare anche tutti i link relativi alla puntata. C'è anche quello dell'associazione Ex Don, Ex Detenuti Napoletani Organizzati, con noi Pietro Ioia, che sta portando avanti questa iniziativa. A luglio saranno a disposizione 80 ex detenuti gratuitamente per i turisti, per accompagnarli, per fargli vivere serenamente il soggiorno napoletano. Pietro, qual è la prima cosa che insegnate? Qual è la prima dritta che date ai turisti per essere sicuri in città? La prima dritta che daremo è di togliersi l'orologio se è costoso sul braccio. Mm-hmm. Poi la seconda è di togliere il portafoglio dalla tasca di dietro e metterla nella cintura davanti. E poi di accompagnarli se loro lo vogliono nei quartieri a rischio, tipo i quartieri spagnoli, Forcella, Sanità. Okay. Ma e lì, scusa, chiamiamoli delinquenti, va bene come termine, me lo concedi? Sì. Ci sarà qualche... vi conoscete? Cioè, nel senso, comunque erano magari i tuoi compagni di delinquenza fino a poco tempo fa, e come ti guardano? Cioè, adesso che sei dall'altra parte, cioè... Guarda, io ho fatto questo corso, è capitato che uno ci seguiva perché voleva truffare il turista. Sì. E noi gli abbiamo detto, guarda, non passa, stiamo noi, stiamo accompagnando noi, tu fatti da parte, tu non li truffi oggi perché siamo noi. e il truffatore se n'è andato. Insomma, sì. Lo stesso è per lo scippatore, lo stesso è per il rapinatore. Insomma, una scelta bella, l'hai detto, ma immagino sia una scelta anche faticosa, no? Perché devi metterti in gioco e non è facile, però sono queste cose poi che cambiano, no? Che cambiano le mentalità, che sono le piccole azioni, stiamo dicendo, la vostra è anche una grande azione, quindi credo che sia un bellissimo segnale per tutta la cittadinanza e non solo. Pietro, grazie davvero, complimenti a te, complimenti a tutti i tuoi abbiamo avuto molto TV addosso, pure la francese. Ah sì, vanno già, immagino, perché insomma la francese, Francia 2, TMV, là, altre televisioni ci hanno dato, ma il problema sai qual è? Qual è? A noi ci ha fatto molto male sapere la morte di quel turista, il turista americano. Sì, certo, è successo pochi giorni fa, certo. E allora noi subito abbiamo pensato che se stava ancora il progetto Esco dentro, quel turista sicuramente non moriva. Perché quel turista è uscito da una nave di crociera, dove noi ci mettiamo proprio sotto la nave di crociera per accogliere i turisti. E quindi quello insomma è diventato lo stimolo per dire dobbiamo rifarlo, dobbiamo scendere di nuovo in strada e noi insomma con la nostra esperienza, perché di esperienza si parla, possiamo difendere i turisti. Pietro, grazie davvero, ricordiamo ancora l'associazione Ex Don, trovate il link nelle nostre pagine in Facebook se volete contattarli e se volete conoscere le loro attività, comunque exdon.blogspot.com. Ciao, buona domenica e torniamo con Marco Boschini. Marco, è arrivato un messaggio nel frattempo in Facebook dove dicono che anche a San Lazzaro, siamo in provincia di Bologna, hanno realizzato un tetto fotovoltaico collettivo per le scuole elementari. Anche lì le famiglie credo si siano messe insieme e hanno portato avanti insomma con questa associazione comunità energetica in accordo con il comune per darsi da fare, mettersi insieme. Ma è il bello un po' anche di queste esperienze che poi si contaminano, si moltiplicano, si trasformano strada facendo. Noi ormai è 6 anni che giriamo l'Italia per cercare di scoprire e di raccontare questa esperienza. Abbiamo creato una pagina su Facebook con il sindaco di Cassinetta, Domenico Finiguerra, che saluto, Acqua Pubblica, che oggi ha quasi 1 milione di contatti, di iscritti, che è la nostra, quella che noi consideriamo l'ammiraglia dei comuni virtuosi. E tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni lo vediamo ripetersi e migliorarsi in giro per il paese. Un messaggio che vorrei dare, che è importante, è che il buon senso che noi raccontiamo non è di destra o di sinistra, non è di una parte o di un partito particolare. C'è un'esperienza, una piccola esperienza che abbiamo fatto nel mio comune, il comune di Colorno in provincia di Parma, 9.000 abitanti, che è il mercato della terra. Il mercato della terra che facciamo insieme a Slow Food, che è questa associazione che tutti conoscono, e che oltre ai vantaggi, a tutti i vantaggi della filiera corta, del mercato tradizionale, dei prodotti sfusi, ha in questa nell'edizione di Colorno una particolarità. È stato proprio fatto, costruito e realizzato, cioè messo proprio in campo da tutti i gruppi consigliari di maggioranza e di opposizione del comune di Colorno, perché non è stata una cosa piovuta dall'alto, è stata una cosa condivisa. E tanto per dire una cosa simpatica, la prima edizione, il numero 0, alle 6 del mattino eravamo io e i consiglieri comunali anche dell'opposizione a mettere insieme i gazebo e a stendere i banchi e le tavole per il mercato. E insomma è una mentalità nuova, no? Che appunto deve andare al di là degli schieramenti, è proprio anche questa può ed è una virtù alla fine, piccoli gesti, grandi gesti, condivisione di progetti, partecipazione e voglia anche di cambiare le cose. comunivirtuosi.org. Noi continuiamo a fare il nostro viaggio in Italia, abbandoniamo per un attimo i comuni virtuosi e iniziamo a pedalare. Bella e seducente, è solo mia, sempre più attraente, non resisto e così sia. Con quella sua linea essenziale ed elegante, possederla un'esperienza intensa ed esaltante. Da quando l'ho incontrata, progetto si chiama Pedala Italia, un progetto che ha il cappello dei 150 anni dell'Unità d'Italia, e quindi è l'idea appunto di raccontarla tutta questa Italia unita pedalandola. Ma i protagonisti sono due personaggi che abbiamo già conosciuto lo scorso anno. Lo scorso anno erano cassa integrati, e per denunciare il loro stato si sono presi una sorta di pausa. In 3 mesi hanno camminato in tutto l'arco alpino. Quest'anno sono ancora cassa integrati, questa è la notizia, e la loro protesta hanno deciso di trasformarla in un viaggio sui luoghi della disoccupazione in Italia. Si chiamano Ugo Ghilardi, Emanuel Ardenghi, e credo che le prime pedalate le abbiano fatte proprio oggi. Ciao Ugo. Ciao Federico. Quando siete partiti? Oggi, ieri? Siamo partiti stamattina da Nembro, siamo andati a Sarnico, ci hanno accompagnati gli amici, abbiamo mangiato un gelato a Sarnico e poi noi ci siamo salutati, siamo partiti per Brescia. A Brescia ci siamo fermati un'oretta e mezza, abbiamo visitato un attimo che si può dire Brescia, Piazza della Loggia, Piazza Garibaldi. Adesso siamo arrivati a Montechiari, ci fermeremo per oggi, ci fermeremo e domani andremo passando da Solferino verso Mantova. Okay. Lo scorso anno un'impresa, mi pare, quanti chilometri avete fatto su tutto l'arco alpino? Un'esagerazione. L'anno scorso abbiamo fatto 1750 chilometri su tutto l'arco alpino con 5000 metri di positivo, sempre a piedi. Invece quest'anno abbiamo pensato di modificare la bicicletta. E nel frattempo non avete trovato lavoro? No, non abbiamo trovato neanche il lavoro. La cassa integrazione finisce fine anno, per cui abbiamo detto dai, che ci prendiamoci questa ultima opportunità. Poi con la ricorrenza del 150esimo di Italia abbiamo pensato di collegare tutte le province italiane. E il viaggio durerà 3 mesi, saranno 8-9 mila chilometri alla fine. Mm-hmm. E andrete anche sui luoghi appunto della disoccupazione, là dove lavoro è un problema, tutta Italia avrebbe da dire, no? Come neanche come battuta, però luoghi significativi, diciamo. Sì, adesso tocchiamo Solferino, Bergamo, Solferino posto il Risorgimento, poi verso Friuli Venezia Giulia andremo a Sacrario il Re di Puglia, perché l'Italia il 150esimo parte con la prima e la seconda guerra mondiale, il Risorgimento. Poi passeremo quando saremo in Piemonte, dalla Thyssen, quelle zone della Thyssen, poi scenderemo giù, faremo l'Italia e passeremo anche i posti dove la disoccupazione è più alta che di noi, è più alta, e il precariato incide molto sui giovani, perché il futuro è lì, perché se non c'è lavoro non c'è costruzione, non c'è futuro. C'è speranza. Ugo, noi pedaleremo con voi, un po' idealmente, ma insomma la nostra estate è lunga, saremo in onda fino a fine agosto, quindi sicuramente ci ritroveremo e così ci potrete raccontare ancora in diretta la vostra impresa. Ciao Ugo, buona pedalata. Grazie, ciao. Buona giornata, ciao. Mine vaganti. Ancora buona domenica da Federico Taddia, ancora un'ora insieme qui in diretta a Radio 24 con Mine Vaganti, il nostro appuntamento settimanale. Cerchiamo di raccontarvi altre storie, altre Italie, altri italiani. Con noi è stato ospite Marco Boschini, coordinatore, uno dei coordinatori dell'Associazione Italiana Comuni Virtuosi. E Marco, grazie davvero per averci così tracciato un'Italia che c'è ed è bello raccontare, anche se non è raccontata abbastanza, credo. Insomma, tu però la testimoni, un po' con le tue parole, un po' col tuo viaggiare quotidiano in questa Italia, da nord a sud, incontri con le persone per raccontare che ce la si può fare. Che è un po' questa ce la possiamo fare. Il referendum di questi giorni ha dimostrato che la società civile, quando si muove, riesce a fare qualcosa di assolutamente impensabile fino a pochi giorni prima, poche ore prima. Voglio fare un saluto, se possibile, certo, alla mia amica Elisabetta, alla mia compagna Monica e al nostro piccolo Marcello, che dovrebbe nascere a fine ottobre. Questa è stata un'azione virtuosa vera, no? Cioè... Assolutamente sì. Okay. Ricordiamo le coordinate allora: comunivirtuosi.org è il sito ufficiale dell'associazione, e c'è il bando, ci si può iscrivere, si possono mandare i progetti per partecipare a questo, chiamiamolo concorso perché è un concorso con i premi dei comuni a 5 stelle, oppure il tuo blog che è marioboschini.it. Ok, abbiamo già pubblicato tutto nelle nostre pagine in Facebook. Ciao Marco, grazie davvero. Ciao, grazie a te e a tutti voi. Noi rimaniamo in questa Italia, nella piccola Italia, lo facciamo con la cronaca locale, oggi commentata da quel cantore che è Davide Riondino. Ma prima di passare la linea a Davide Riondino, ho trovato una piccola chicca che lo vede protagonista su YouTube e così lo voglio usare come colonna sonora introduttiva. Lui è Davide Riondino. Il cibo che tu mangi non nutre solo il corpo, ma il cibo dello spirito. parlasse solo di un stel con i crauti, avrebbe un'anima di senape. Pane salame, piatti di custus, massa che raccolte, non mi basta più. Mistici digiuni è il titolo di questo pezzo, con un Davide Riondini in versione Battiato. Ciao David! Ciao, eccoci qua. Mistici digiuni, sono molto tempo fa, è Battiuto, sì, Franco Battiuto, Franco. Un cugino di Battiato. Sì. È fantastico, l'ho trovato per caso, sono andato alla ricerca, basta digitando Davide Riondino, scusa adesso ci facciamo un po' di affari tuoi, ma su YouTube c'è tutta una serie anche dei tuoi pezzi che hai girato su uno scoglio in solitudine. Ci sono tutte, sono delle sigle finali di una vecchia cosa che fece Vergassola. Io su uno scoglio facevo canzoncini, ho fatto Triglia, Paguro, sì. Pesci Cia Cia Cia, Grandi Aragoste, sono degli interessanti aspetti, letteratura e arte, devo visiva, te lo dico perché sono a Venezia e ho visto la Biennale, quindi secondo me i miei pezzi televisivi valgono la Biennale. Anzi, forse qualcosina in più, vero? Sì, sì. Allora Davide, come ogni estate noi ci ritroviamo qua per commentare insieme la cronaca locale, anche perché so che tu dai una valenza particolare agli articoli che raccontano la provincia, vero? Sono dei segni... In realtà sono dei segni cosmici, perché in tutto c'è il tutto e il quasi tutto, onde per cui il movimento cosmico dell'essere si rappresenta quasi sicuramente dentro dei microfatti in genere provinciali, che non sono quindi da considerare laterali e casuali, ma emblematici del senso di dove va l'Occidente. Ho capito, cioè il calendario Maya potrebbe essere fatto insomma con la cronaca di provincia, questo è un po' il sunto. Esattamente. Benissimo. Peraltro dentro la Biennale c'è un accenno anche a un performer che ha fatto una cosa sulla scrittura vera del calendario Maya e probabilmente torna con molte cose che non sono state ancora trascritte. Molto bene, perfetto. Uh-huh. Entriamo allora nella cronaca, questi sono gli articoli che ho selezionato per te. Il primo e c'è stato, è stato pubblicato proprio sulle nostre pagine in Facebook da un ascoltatore, il Gazzettino, siamo a Belluno, questo è il titolo. Sì. Scomparso per un giorno, a 96 anni io faccio quello che voglio, era uscito per una passeggiata, in serata la moglie ha dato l'allarme non vedendolo rientrare, lui ha dormito sotto un ponte e il giorno dopo ha detto avevo voglia di farmi 24 ore in solitudine. Beh, io lo conosco, quel signore di Belluno già lo fece 30 anni fa, e l'aveva fatta anche a 16 anni. Quando uno non lo può fare, deve smetterla, deve fare continuamente, è un, diciamo, un provocatore. E questi ragazzi giovani devono smettere di occupare le piazze, di andare in giro con i capelli lunghi, con i tatuaggi e di fare quello che ti pare anche a 90 anni, perché questa cosa non va bene. È proprio giusto quindi che sia redarguito e rappresenta in questo caso che... Però, detto seriamente, secondo il calendario Maya, dell'app Maya naturalmente, ovvio, questo significa che la tendenza all'autonomia è un fatto cosmico, perché questi novantenni sensibili funzionano da antenna, l'antenna del novantenne che in qualche maniera ci significa che è finita un'epoca e ne inizia un'altra, l'epoca del faccio quello che mi pare, non corrispondo più, diciamo, alle regole borghesi dell'esistere, è un post 68 che apre il nuovo millennio, e lui nel 68 già fece così anche quando aveva 25 anni. Allora David, stai lì, lasciamo un attimo spazio, un minuto alle informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo con le prossime notizie della cronaca locale. Mine vaganti. David, qui si è scatenato un delirio. Sì, mistici digiuni. È interessante. È un ritorno. Comunque ho pubblicato, perché c'è anche il video, ho pubblicato sulle nostre pagine in Facebook la canzone, così ve la potete godere tutta. C'è un video fatto non da me, ma qualche ascoltare qualcuno. Un tuo fan, sì, sì. Diletto a farlo. Sì, sì. Lo ringrazio. È proprio da ascoltare così, prima di cena, è proprio adattissimo. Qualche altro pezzo estrapolato dalla cronaca locale, il Corriere del Mezzogiorno, siamo a Ragusa, titolo secco, chiede al poliziotti di cancellargli la multa e offre in cambio 3 grammi di eroina. Vabbè, quindi questo è un discorso su quanto può valere l'eroina adesso sul mercato, dipende dal tipo di multa che ti fanno. Però è molto interessante questa cosa qua. Intanto perché le multe sono, diciamo, spesso non tanto delle mole, molte sarebbero giuste da fare se uno occupa un passo carrabile oppure insomma va a 120 all'ora davanti a una scuola, ma in genere le multe, se di multa automobilistica si tratta, sono veramente dei furti fatti per pagare una serie di debiti dei comuni in realtà. Quindi creano le multe una doppia cittadinanza, il cittadino che deve pagare la multa e quello che invece che ha dei denari, che con una specie di denaro dato sotto forma di multa fa quello che gli pare assolutamente. Quindi questo cittadino ha ritenuto di dirci che in qualche maniera queste multe non hanno più senso, non hanno più valore in qualche modo, oltre che il denaro è una droga, anche questo ci ha voluto dire. Quindi è pagabile in droga una cosa quando una cosa non ha più un valore oggettivo. Discorso complesso. Da biennale, se non credo che lui avesse fatto tutti questi ragionamenti, però la giustificazione ti prenderà come avvocato. Come è andato a finire? Poi l'hanno messo in galera o no? L'hanno messo la droga in silenzio. Vieni con noi. La tribuna si chiama Gagliarine, la tribuna di Treviso. Il titolo: lascia il seggio per andare a giocare al torneo di golf. Il presidente del seggio durante le elezioni del referendum ha mollato tutti, è andato a giocare a golf ed è stato beccato. Quindi intanto c'è da notare che a Treviso succede una cosa simile anche a Belluno, grosso modo, cioè c'è delle sparizioni improvvise, va bene, e inopinate di signori che scompaiono. Il secondo, quindi, è un morbo del nord-est, cosa che uno non se l'aspetterebbe. In secondo luogo c'è il fatto che lui era probabilmente del centrodestra e ha obbedito quindi indirettamente al consiglio del presidente, quindi ha fatto tutte e due le cose: da una parte è andato al seggio, dall'altra parte è andato anche al mare o al golf, come gli avevano indicato, no? Quindi ha fatto stato e non c'è stato insieme. Non ci avevo pensato. Indica la crisi profonda di un certo tipo di elettorato che non riesce più a rispondere, perché gli avevano dato due ordini, il giorno stesso avevano detto invece di andare a votare. Quindi nella confusione lui comunque ha detto vabbè, proviamoci. Ha fatto tutte e due le cose, nel senso dell'onnipotenza del nord-est. Questa ti piacerà, il resto del Carlino, siamo a Medicina in provincia di Bologna, il titolo: i segugi della puzza in campo, daremo i voti ai cattivi odori. Il sindaco ha fatto un corso per 100 cittadini per diventare cacciatori di puzze e li ha disseminati nel comune, devono annusare e mappare puzze e profumi del comune. Questa è veramente molto bella, intanto perché ci dà l'idea di quello che può essere dopo la fine, diciamo, di questa epoca oscura, l'epoca nuova, cioè sensibilità a cose impalpabili, attenzione all'invisibile. Abbiamo a lungo detto che le cose che non si vedono sono le cose più vere. In questo caso l'odore è una cosa che non si vede, odore è anche odore cosmico, odore dell'anima, odore del silenzio, capito? Odore di un pensiero, di un innamoramento. Quindi è giusto per tutta l'Emilia Romagna che vadano questi annusatori di sentimenti, va bene? È una grande trovata per una nuova occupazione, capito? Grande occupazione. Ci sono, posso mettere anche delle fialette con degli odori dentro, sì, capito? Andiamo a che ci possono vendere. Questa è molto bella, trovo molto bella questa qui. Vedo che comunque la biennale ti ispira. Poi guarda, non solo, ma è un ponte lanciato tra l'uomo e l'animale. L'uomo e l'animale si rompe il patto ai tempi di Noè, di quei tempi là, no? Invece in questo caso qua è come il cane, è come il gatto, è come il dromedario, che vanno avanti, che fiutano l'acqua a distanza di chilometri, capisci? L'uomo no, invece l'uomo quindi si ricompone con la natura. Ho capito. E vediamo se si ricompone anche nel caso della prossima notizia. La Repubblica di Genova, questo è il titolo: gabbiani all'attacco del carcere, un gruppo di gabbiani reali per proteggere i propri nidi assaltano gli agenti penitenziari a Marassi. Però il gabbiano reale è una specie protetta, quindi gli agenti non possono far altro che indossare i caschi. È giusto anche questo fatto qua. Specie protetta è il tema di protezione. Coloro ci vogliono dire che cos'è una protezione. Una carcere è una protezione, va bene? O una separazione, che questo vogliono dirci. Quindi specie protetta siamo tutti quanti noi, forse. Loro non a caso hanno messo questo nido, perché hanno messo sul carcere? Cosa hanno voluto dire? Questo è il discorso, capisci? Quanto la famiglia, il nido è un carcere, questo è un discorso che ci porta a Bergman, a tutto il discorso sul cinema, diciamo, nordico e sulla crisi di una società basata sulla famiglia come elemento anche, diciamo, di costrizione inconsapevole. Qui c'è tutta la psicanalisi e via dicendo che si potrebbe fare, ma il gabbiano allude a questo, ci fa domandare di nuovo, siamo sicuri che non è meglio una comune invece che una famiglia? Un nido non sarà una situazione chiusa. E quindi siamo di nuovo a un 68 che riparte, come ha indicato l'omino di Belluno. Esatto, capisci? Il 96enne che ha detto io faccio quello che mi pare. Davide, grazie per averci dato questa nuova visione e veramente secondo me ti terranno lì alla Biennale come installazione vivente. Secondo me sì. Mi stanno già inchiodando i piedi al pavimento. Davide, ci troveremo sicuramente ancora in quest'estate e ti seguiremo anche perché so che hai mille attività e ci piacerà anche andarle a raccontare, soprattutto ad agosto so che ci sono varie iniziative. Dimmi. Certo, l'ultima cosa che però ti dico, secondo me la vera azione performante che l'hanno fatta in queste settimane le signore della arabe, insomma, della Mecca, sì. Va bene? Quando hanno semplicemente preso il volante e hanno guidato suonando il clacson. È proprio molto bella questa cosa qua, molto elementare, molto minima, ma anche molto cosmica. Molto cosmica, ci è piaciuto. Grazie Davide, ciao. Grazie a te. Ciao ciao. Aspetta. La cronaca locale raccontata da David Riondino. Quando a casa tornerai, vienimi a trovare. Sono un gruppo, si chiamano i Camillas, anche questi li abbiamo già pubblicati con testo, canzone e video sulle nostre pagine di Mine Vaganti di Radio 24. Li usiamo per introdurre il prossimo ospite. È un artista che ha fatto un viaggio particolare, un po' in bicicletta, un po' invece sfruttando il divani letti altrui, e ha raccontato in questo suo viaggio una strana via, una via del pane, andando a immortalare tutti i panettieri che incontrava nel suo pedalare prima e nel suo camminare poi. Diamo il benvenuto a Franco Rasulo. Ciao Franco. Ciao ciao. Non è facile sintetizzare il tuo viaggio, No, non è facile, però si può provare. Quindi, che... Tu sei partito da Asti? Io sono partito allora da una compagnia teatrale in cui spesso ho lavorato, sì, che è la Casa degli Alfieri, quindi a Castagnolo e Monferrato. Sono stato lì un po' campeggiato nel parco, poi quando eravamo pronti siamo partiti in bicicletta e abbiamo attraversato senza allenamento chiaramente, io e la mia ragazza siamo partiti, abbiamo fatto per allenarci tutta la pianura padana che, essendo pianura, era facile pedalare, poi più o meno ho trovato l'assetto, siamo scivolati giù dalle Marche, un po' nell'entroterra, incontrare un po' di realtà comunitarie come la tribù delle noci sonanti, un ashram che c'è da quelle parti, comunque diverse realtà tra virgolette alternative. Ad Ancona ci siamo sbarcati a Igumenizza, da Igumenizza abbiamo seguito la via Ignazia, che è questa antica via romana che collegava Roma a Costantinopoli, un proseguo della via Appia di fatto, sì. E poi siamo arrivati, la prima fase era tutta montuosa, terribile, poi finalmente siamo scivolati giù a Salonicco, da Salonicco abbiamo inforcato il mare e piano piano siamo arrivati a Istanbul. Poi da Istanbul è stata la prima tappa e lì avete abbandonato la bicicletta? Beh sì, erano già passati 3 mesi. È abbastanza, certo. Con calma, siamo andati molto con calma. Poi essendo con la mia ragazza io cercavo di fare delle linee, lei faceva dei cerchi, e per cui abbiamo ricamato questo viaggio. Lei cercava di stare sempre vicino al mare, quindi se c'era un'isola andavamo sull'isola, se c'era una penisola andavamo sulla penisola. Insomma non avevate fretta, vi siete goduti questo periodo. Ma fretta, se viaggio non ho fretta, se no sto qua. Sei artista, mica per niente, certo. E da lì invece... E poi da lì, dopo un arrivo a Istanbul notturno, quindi veramente abbastanza inquietante, in bicicletta come se fossimo, non so, a luna di notte nel raccordo anulare, una cosa del genere. Okay. Siamo fatti 2 ore di raccordo anulare di Istanbul alle 2 di notte per raggiungere il primo couchsurfer. Perché da lì abbiamo cominciato a viaggiare dentro le case della gente, perché il rischio era poi di banalizzare il viaggio, nel senso che una volta lasciata la bicicletta e quindi il contatto con la natura, il rischio era che poi l'unica possibilità era finire negli hotel, e mi interessava relativamente poco, anche perché era molto più caro di fatto. E quindi insomma avete utilizzato questa forma di turismo alternativo, che insomma c'è tutta una rete, si può viaggiare utilizzando il divano letto di chi ti ospita. Però tutto il tuo viaggio è ben raccontato nel tuo blog, che è francodifrinco.wordpress.com, il link nelle nostre pagine, ma nelle nostre pagine di Mine Vaganti ho pubblicato anche due o tre foto, perché tu hai fatto una sorta di raccolta fotografica, perché comunque il tuo viaggio ha avuto tante direzioni, oltre alla direzione fisica anche come direzioni mentali. Una di queste è stata quella legata al pane e in particolare ai panettieri. Tu sei figlio di panettieri, se non erro? Sì, sono figlio di panettieri lucani, quindi mio padre e mia madre fanno il pane ma non possono farlo insieme perché sennò litigano, quindi una situazione tipo il Kung Fu della Basilicata è fare il pane, ogni famiglia ha la sua storia e quindi loro, comunque io mi sono messo in mezzo da buon figlio e ho attinto un po' di qua e un po' di là e ho imparato a fare un pane che è la sinergia dei due genitori. E niente, quindi diciamo che la mia relazione col pane è una relazione che ha radici profonde, nel senso che io mi svegliavo al mattino, quando ero molto piccolo c'era mio padre che faceva il pane sotto casa, forno a legna, e io mi svegliavo col profumo del pane, andavo giù nel forno, prendevo un pezzo di pane caldo, me lo portavo in camera, me lo mangiavo e poi mi riaddormentavo. E quindi per me il pane è un po' la casa, un po' il padre. Fatto sta che poi fondamentalmente io mangio pane. Cioè tu mangi pane, e divoratore di panettieri nel senso buono, nel senso che li hai usati proprio come esatto, cifra del tuo percorso. Esatto. Tu quindi trovavi un panettiere e lo fotografavi. Perché poi mi sono reso conto che i panettieri ne incontravo tanti, perché ogni mattina mi svegliavo e il mio primo pensiero era cercare del pane, mi ritrovavo in queste panetterie bellissime con queste facce sempre molto accoglienti e generose. Tante volte, una volta che gli spiegavo l'idea, mi regalavano il pane, la pizza, le focacce, tutto quello che c'era. E quindi sono andato avanti così nella generosità dei panettieri di tutto il percorso che ho fatto e li ho immortalati perché la via del pane raccoglie tutti, il pane c'è sempre ovunque, prende solo declinazioni diverse ma continua a esistere e nella sua semplicità lega un po' tutti, siamo tutti fratelli intorno al pane. Le vie del pane, appunto, alcune foto le abbiamo pubblicate e sono state anche esposte ad Asti recentemente in questa mostra, però è un progetto che andrà avanti, quindi sicuramente terremo aggiornati i nostri ascoltatori, perché so che insomma questa esposizione vorresti un po' portarla in giro, perché è veramente un viaggio in questo bel mondo, un mondo saporito, ma è bello, è significativo e pieno di metafore. Franco, complimenti per questa impresa. Va bene, il tuo sito lo aggiornerai, quindi è sufficiente? No, aggiornare no, lo farò diventare libro. Ah, ok, lo completerò, perfetto, con la parte indiana e poi lentamente lo trasformerò in libro. Benissimo, francodifrinco.wordpress.com, però se uno vuole avere aggiornamenti su possibili altre mostre lì, magari dai, qualche news puoi metterla. Sì, no, qualche news sicuramente. Ok, grazie Franco, complimenti. Grazie a te. Ciao, ciao, ciao. Bene, ciao. Un'altra Mine Vaganti, adesso ci fermiamo nel momento della pubblicità, poi attenzione perché andremo al di là dell'oceano, andremo a Los Angeles, è partita la gara impossibile di Alex Bellini e andremo in diretta a correre con lui in questa prima tappa. Mine Vaganti. 70 tappe in 70 giorni, 5.000 chilometri da Los Angeles a New York. Questa è la Foot Race 2011. Per noi, con noi c'è Alex Bellini e noi correremo con lui. Well, I saw a park run, but I'm out on the road again. I'm on the road again. Secondo giorno a Los Angeles, corriamo su strade vuote, è una sensazione fantastica, fa un discreto freschino, vi devo dire, ci vogliono le maniche lunghe qua. Comunque sensazioni ottime, abbiamo preso un primo contatto con il pueblo americano, ci divertiamo un mondo, non facciamo nient'altro che spassarsela tutto il giorno. I'm on the road again. Ci stiamo preparando al meglio. Volevo darvi un saluto a parte di tutto il team, nella speranza che questo non sia solo un viaggio mio, ma un viaggio di tutti. Vi diamo un saluto, alla prossima, ciao! And my Questo era Alex Belini che si raccontava pochi giorni fa sul suo sito alexbelini.it, ma oggi la gara è iniziata e oggi Alex Belini sta correndo e lo sta facendo in collegamento con noi. Ciao Alex! Ciao Federico, buongiorno! Buongiorno a te, come stai? Guarda, molto bene, sono ormai passate 4 ore e 10 dalla partenza, abbiamo fatto poco più di 37 chilometri, è una giornata un po' nuvolosa, l'ideale però per una partenza felice. La cosa mi piace molto, sono molto carico, guarda Federico, ti dirò, devo tenere tappato il vulcano, altrimenti rischierei di farlo esplodere prima del previsto, no? Quindi sto correndo a un ritmo medio, me la sto godendo. E così, insomma, tutto bene. Anche perché hai fatto 36 chilometri, ne devi fare 5.000. Non faccio la sottrazione per dirti quanti sono i chilometri mancanti, perché parebbe brutto. Oggi sei a metà strada. Come 5.000? Quanti sono in tutto? Ma non mi avevano mica avvisato che erano così tanti. Scusa, ho svelato. No, ma allora c'è qualcosa che non va. La gente mi prende in giro, mi hanno detto che era un poco più di una dozzina di chilometri. Auguri allora. Alex, 16 partecipanti, qual era il clima alla partenza? Cosa vi siete detti? Sai, condivideremo la strada per 70 giorni, quindi è un po' come incontrare delle persone che ancora non lo sai, ma diventeranno i tuoi compagni di viaggio, no? Quindi inizialmente ci siamo guardati, come si può dire, con un po' di indifferenza, ma presto si creeranno le prime amicizie, sarà ancora più divertente. Ma si corre insieme, tu li vedi in questo momento i tuoi compagni o ognuno fa la propria gara? Guarda, in questo momento corro da solo, ho corso, diciamo, tre quarti della gara fino in questo momento da solo, ci sono stati momenti in cui ho avuto così, la compagnia di qualcun altro, ma sai, è talmente, ognuno ha talmente il suo ritmo che è impossibile cercare di adeguarsi subito, magari col tempo, con le settimane, le differenze diventeranno sempre meno percepibili, certo. Quindi ci si attesterà tutti quanti su un passo medio, un passo comune a molti. Già c'è un giapponese, un tedesco, sono schizzati come dei fucili, ma non riusciamo a stargli dietro, quindi ognuno fa la propria gara. Alex, tu hai preparato il corpo e la testa, ci hai raccontato settimana scorsa appunto il lungo lavoro che hai fatto di preparazione, come stanno? Nel senso che concordano in questo momento la tua testa e il tuo corpo? Ti lanciano gli stessi messaggi? Sì, cioè, ovviamente in questo momento è di vitale importanza, un po' faccio una metafora, un po' come avere il cruscotto di un aereo, no? Tutti con le spie sul verde, e quindi in questo momento siamo tutti settati nella migliore delle condizioni, le spie rosse sono state spente, adesso è in partenza questa lunga corsa e vedremo, ovviamente attraverseremo anche momenti di grande crisi, di difficoltà, di sconforto. Li affronteremo uno per volta. Mm-hmm. Saremo con te ogni domenica, correremo con te idealmente, noi comodamente seduti qua dal nostro studio, anche se non vogliamo raccontare solo la gara, solo l'impresa sportiva, insomma sarai un occhio importante in questi Stati Uniti che andrai ad attraversare. Adesso hai fatto pochi chilometri, se possiamo dire che sono pochi chilometri, 36 di corsa da questa mattina. Cos'hai visto, cos'hai raccolto già, quali sono state le prime impressioni, le prime sensazioni? Guarda, ti dirò la verità, correremo 2 giorni nella contea di Los Angeles, è talmente ampia, talmente vasta che una città si impiega 3 giorni per attraversarla, è difficile, sai, sono zone residenziali, sono piccole villette, ogni tanto un cavalcavia su delle freeway da 7 corsie, 8 corsie, un odore un po' acre si respira, però noi non lo vediamo e non lo sentiamo perché siamo già proiettati a qualche giorno, quando attraverseremo le prime zone di deserto, e lì inizierà, come si può dire, l'avventura vera, quella solitaria, quella dove non ci sarà niente, esclusa la strada. Il traguardo questa sera, dopo 70 chilometri, sarà dove? Il traguardo sarà in una cittadina chiamata Norco. Mm-hmm. Saranno 75 chilometri la prima tappa, non vedo l'ora di arrivare, anche perché mi è stato garantito il massaggio alle gambe. e quindi voglio essere il più veloce possibile, perché è un momento molto bello quello. E questa mattina a che ora avete iniziato? Il via è stato a che ora, locale? La sveglia è suonata alle 3 della mattina e il via è insomma, la pistola ha esploso, il colpo salve alle 5:30, eravamo sulla spiaggia, quindi abbiamo veramente fatto i primi passi sulla sabbia, abbiamo ieri un po' così come battesimo pucciato le gambe in acqua per ricordarmi vecchie avventure, non tanto di pochi anni fa, e quindi adesso ci stiamo addentrando verso l'interno. Già all'orizzonte vedo le prime colline che separano la costa dall'interno, e una volta superate le colline li troveremo il primo deserto. Ecco, questa cosa è bella, però insomma, tu sia l'Atlantico che il Pacifico li hai attraversati in remine solitaria. Com'è stato rivederli, rincontrarli? Erano odori che conoscevi? È stato come entrare in un ristorante e sapere esattamente come erano disposti i tavoli, le sedie, il profumo. Vecchie amicizie, no? Benché non abbia intenzione di rimetterci piede in acqua, veramente, insomma, non voglio rimettere la barca remi in acqua, però sono quei momenti che sono emozionanti, che ti ricordi comunque per una vita. In questo momento stai passeggiando o stai comunque correndo? Perché è bello anche sapere che stiamo facendo questa intervista mentre lui sta partecipando a una gara. Cioè... In questo momento, allo scaccare delle 4 ore, mi sono fermato per il mio pasto. Ogni 2 ore io faccio un piccolo pasto, quindi mi sono seduto su una sedia che il mio team mi ha preparato, ho consumato il pasto molto rapidamente, mi è stato dato in mano il telefono e adesso proseguo per ancora 5 minuti perché ho un quarto d'ora di... Hai? Intanto un altro corridore. Passato? Mi ha passato, sì. Per dirti, no? Ognuno ha il proprio passo, ci si scambia, si va, si viene. Perfetto. E quindi faccio ancora 5 minuti di passeggio per mandare giù il boccone e poi riprendo per altre 2 ore. Ottimo. Devi dire a quelli del tuo team, vorremmo immortalare questo momento, quindi se ti fai scattare una foto mentre sei al telefono con noi, così poi la pubblichiamo anche noi in Facebook, ed è un modo per... bravo, e così rimaniamo in contatto. Alex, noi insomma tenteremo di settimana in settimana di portare anche il nostro contributo, di farti arrivare un po' anche la nostra energia. Poi ricordiamo che sul tuo sito alexbellini.it è possibile anche seguirti giorno per giorno, quindi proprio avere un rapporto quasi quotidiano con te. Esattamente, vi aspetto numerosi, si dice così, no? Sì, abbiamo poi sensi di colpa perché insomma la pausa ti abbiamo rovinato la pausa, tu dovevi riposarti. No, non ti preoccupare, va bene anche la testa non dire 2 parole, altrimenti tendo all'introspezione. Ok, no, esterna. Alex, dai, ti mancano ancora una 40ina di chilometri oggi e qualche migliaio davanti, ma noi saremo con te. E uno dopo l'altro. Ciao Alex, giorno per giorno, con te. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Alex Bellini, lo incontreremo ogni domenica alle 18:30 per correre con lui la Foot Race 2011 da Los Angeles a New York. Adesso invece ci fermiamo per strade da non fare a piedi, ma da fare in automobile, il traffico. Mine vaganti. Queste mine vaganti, concedetemi proprio un minuto anche per promuovere la puntata speciale che faremo martedì 21 giugno dalle 21 alle 24 con la notte prima degli esami. Saremo insieme 3 ore per raccontare la notte prima dell'esame di maturità, visto che mercoledì iniziano gli iscritti, e sarò qua in diretta per 3 ore per raccontare la vostra maturità, se l'avete fatta anche gli anni scorsi e volete ricordare, rivivere con noi questo sogno o questo incubo, oppure se siete studenti e avete voglia di raccontarci come vi state preparando in queste ultime ore prima dell'esame, siamo qua. Non sarò solo, con me vi faccio solo l'elenco delle persone che ci racconteranno il loro esame. Ci sarà Giuliano San Giorgi dei Negramaro, ci sarà Geppi Cucciari, ci sarà Massimo Gramellini, Alex Britti, Antonio Cornacchione, Marrakesh, Rocco Tanica, Francesco Renga, Daniele Silvestri, Gene Gnocchi, Renzo Arbore, Marco Marco Bellinelli, Raul Bova, Neri Marco Re, la scrittrice Michela Murgia, Valentina Vezzali, insomma una grande festa qui a Radio 24, tre ore insieme per vivere l'esame di maturità. Adesso invece momento artistico, lo sapete, ogni puntata ci piace chiuderla con un tuffo nella musica anche alternativa, nella musica particolare, in questo caso nella musica ecologica. Rotolatevi nell'erba della pianura, fate tutti quanti un salto senza paura. Paura, paura, paura. Un calcio all'avvelenamento planetario, facciamo un bel inchino ai pesci al mercurio, un braccio in alto per chi non ha acqua da bere e l'altro che fanno per chi non vuol vedere. Sapere, vedere, sapere. Beh, intanto è impossibile non ballare con il ballo del Poron Pon Pof, che insomma c'ha un taglio ecologico nel testo, ma è proprio il taglio ecologico anche nella fattura, nella realizzazione di questo brano. Vi dico solo che la chitarra è fatta con una scopa, il parquet invece è diventato il basso, i bidoni normali sono diventati la batteria e mille altri strumenti che prendono origine da oggetti che spesso invece sono solo spazzatura. La musica è quella di Capone, i Bunghi e The Bank. Ciao Capone. Ciao a tutti, ciao Fede, come stai? Io benissimo, e tu? Bene, bene, tutto a posto. Sono quasi pronto per suonare, stasera si suona. Dove siete? Siamo a Frattamaggiore in una manifestazione bellissima organizzata con tutte le associazioni e fanno una festa di tutte le associazioni di fine anno con i ragazzi che hanno lavorato sul riciclo, sulla cultura e su un sacco di cose interessanti e belle, fanno questo mega festone e noi siamo ospiti di questa festa. Insomma, anche perché rappresentate bene questo movimento, questo movimento, questa voglia di fare musica, di stare insieme e farlo in maniera ecologica. E siete un gruppo a impatto zero, ma partendo proprio dagli strumenti musicali, e questo da sempre, Capone, non è una novità, vero? No, non è una novità, poi tu mi conosci bene, sono più di oramai 11-12 anni, che perseguiamo questo obiettivo di riuscire a fare musica di qualità con strumenti che provengono, diciamo, dal riciclo, magari anche direttamente dalla pattumiera. Cioè non cerchiamo di comunicare un concetto, cioè quello del riutilizzo, prima ancora di fare la differenziata, utilizzate le cose, non le fate andare proprio nel circuito del riciclo, ma invece riutilizzarle, che poi è un vecchio modo di vivere che gli uomini hanno forse un po' dimenticato, ma che ha fatto la storia dell'umanità. Ma io per esempio ricordo che rimane lo strumento più mitico, la vaschetta del gelato da un chilo trasformato in basso elettrico, se non erro. No, in realtà quella che voi sentite all'inizio del ballo del Poron Pon Pof, che parte quella specie di arpina che suona, che fa quel giro, quella è la scatolera, è proprio lei, quella è una scatola di gelato con degli elastici. Esatto, questo. Con gli elastici? Gli elastici, sì, fanno da corda gli elastici e poi c'è tutto il corpo della scatoletta da gelato da mezzo chilo che fa da cassa di risonanza. Avete questo tour con l'Eco Music Live, non solo musica ma anche laboratori, avete e state coinvolgendo anche i ragazzi nel costruire questi strumenti. Sì, assolutamente, l'obiettivo è quello di fare una giornata intera da passare con noi, quindi insomma una brutta giornata per il pubblico, una giornata intera da passare con noi, tra l'altro in collaborazione con Lega Ambiente. Facciamo un intervento la mattina sul territorio, nel senso che andiamo, che ne so, se suoniamo vicino a una spiaggia andiamo insieme a Lega Ambiente a fare una pulizia di questa spiaggia, raccogliamo chiaramente purtroppo tanta spazzatura che però poi nel pomeriggio si trasforma magicamente in strumenti musicali, perché io faccio un workshop nel quale insegno a ricavare strumenti musicali appunto dalla spazzatura. E poi la sera con questi strumenti che abbiamo costruito li regaliamo al pubblico e facciamo insieme, quando facciamo il nostro concerto, anche una grande esecuzione globale di tutta la platea che suona, e quindi la più grande orchestra fatta con strumenti riciclati. Oggi a Frattamaggiore, il 24 ad Afragola, ma la tournée è lunga. Do subito il sito, che è caponebunghedebankde.com, c'è già il link nelle nostre pagine in Facebook. Due parole su questo singolo, come nasce questo ballo del Poron Pon Pof? Allora, nasce, io l'ho scritto in realtà pensando a mio figlio, nel senso mi sono immaginato che cosa lasciamo a queste giovani generazioni, nel senso che siamo siamo arrivati a un punto nel quale è molto evidente che insomma bisogna riprendere un modo di vivere più sano e più pulito nel vero senso della parola. Quindi mi sono chiesto come poter comunicare questo concetto e mi è venuta l'idea di fare questo gioco tra la danza e l'ambiente. Quindi nella canzone ci sono delle immagini di degrado ambientale associate a dei movimenti di danza, anche perché la danza, essendo un altro dei linguaggi più viscerati e più istintivi che l'uomo ha, sicuramente si sposa bene con la musica ed è un modo per arrivare veramente prima al cuore e poi alla mente, perché questo è anche un altro dei nostri obiettivi, far colpire chi ascolta prima con le emozioni e poi magari ragioni e dici: ah sì, è vero, magari se faccio uno sforzo per tenere il mondo più pulito è meglio. Però certo, l'importante è arrivare prima, sai, a cogliere l'anima sì, delle persone. Sì, insomma, si parte anche dalle sfumature. Tra l'altro guardate il video perché è molto bello, con questa lattina, molto poetico, e ci sono anche le istruzioni per il ballo, perché insomma può essere veramente uno dei balli dell'estate. Ciao Capone, grazie, complimenti a te, complimenti a tutta la band come sempre. Grazie, perché insomma, un abbraccio a tutti voi, ci vediamo presto. So l'impegno che c'è dietro. Sì, ciao, grazie. ciao. Un calcio all'avvelenamento planetario, facciamo un melichino e pesci al mercurio, un braccio in alto per chi non ha acqua da bere. E teniamo il ballo per i titoli di coda, un grazie a tutta la squadra di Mine Vaganti, a Margherita Ina e a Giorgio De Luca che con me hanno scritto la puntata, Laura Vanossi oggi in assistenza, Paolo Corleoni alla parte tecnica, voi con tutte le vostre segnalazioni a minevaganti@radio24.it oppure nelle nostre pagine ufficiali nel Facebook. Un grazie per essere stati in nostra compagnia, l'appuntamento con Mine Vaganti è a domenica prossima, ma vi aspetto con la maturità martedì prossimo dalle 21 alle 24 con La Notte Prima degli Esami. Ancora ciao da Federico Taddia.